che cosa ce ne frega di tutte quelle zecche attaccate al sedere del televisore, che si danno alla gente discorrendo di niente. Così deprimente, così deprimente, così deprimente. Quasi che la colpa è nostra se spingiamo la giostra. Ogni canale mette in mostra più di una faccia tosta, che dispensa consigli, che ti mostra gli artigli. Oh poveri figli, oh poveri figli, oh poveri figli della televisione, televisione. Scherzare, ma per fortuna c'è la televisione, televisione. L'unica soluzione alla crisi sociale, o meglio personale. Ma che cosa ce ne importa di chi mangia la torta, se poi devi stare a dieta e un influencer ti esorta a stringere la cinghia sotto la sua giacca scura. Già mucchi alla cintura, mucchi alla cintura, mucchi alla cintura. Quasi